Bologna e dintorni. Come va il mondo? Sabato 26 ottobre, io sono Alessandro Albana e questa è la quinta puntata di Bologna e dintorni. A poco più di un anno dai tragici eventi del maggio 2023, Bologna e l'Emilia-Romagna si trovano di nuovo a dover pagare un prezzo umano, economico e sociale molto alto a causa di eventi meteorologici avversi. A Catania negli stessi giorni è toccato lo stesso destino, dopo le alluvioni che avevano messo in ginocchio la città nel 2021. Poco lontano, sempre in Sicilia, siccità ed emergenza idrica sono ormai fenomeni con cui fare i conti quotidianamente. A Messina, ad esempio, il razionamento delle forniture idriche alle abitazioni è rimasto in vigore per molti mesi quest'anno. Secondo alcuni studi, un terzo del territorio siciliano diventerà desertico entro il 2030. Complessivamente, secondo le stime del CNR, il 70% dell'isola è esposto a un significativo rischio di desertificazione. Ma perché una trasmissione che vorrebbe occuparsi di quello che accade nel mondo dovrebbe interessarsi di questi fatti? Piogge e alluvioni che hanno colpito la Germania meridionale tra maggio e giugno di quest'anno hanno causato la morte di 9 persone. A luglio del 2021 le alluvioni che hanno coinvolto i territori di Belgio, Germania e Paesi Bassi hanno lasciato dietro di sé quasi 250 vittime. E mentre a Bologna si consumava il disastro dello scorso fine settimana, piogge torrenziali e alluvioni interessavano le regioni centrali della Francia. Questo è solo un breve e tutt'altro che completo elenco, che però dà il senso della catastrofe in corso. Il 2024 è stato l'anno più caldo mai registrato. Secondo l'Unione Europea, negli ultimi 40 anni gli eventi atmosferici estremi hanno causato tra le 85.000 e le 145.000 vittime, generando danni all'economia per circa 500 milioni di miliardi di euro. Come sempre, sono i paesi più poveri a pagare il prezzo più alto, anche in termini economici. L'ONU stima che il cambiamento climatico stia causando una contrazione del PIL dei paesi africani compreso in media tra il 2 e il 5%. Per capire come e perché gli effetti dei fenomeni atmosferici e climatici estremi siano diventati così tragici per le nostre vite e per il mondo che ci circonda, è però necessario guardare anche al dissesto territoriale causato da processi come la cementificazione e il consumo di suolo. In Unione Europea, paesi tradizionalmente considerati virtuosi come Belgio, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi occupano le prime posizioni nella drammatica classifica del consumo di suolo. È però l'Italia il paese europeo più esposto al rischio idrogeologico. Inquinamento, consumo di suolo, cementificazione presentano oggi un conto salatissimo in tutto il mondo, Europa inclusa. Prima di addentrarci nell'argomento con l'ospite di oggi, ci prendiamo qualche minuto di pausa. A tra pochissimo. Time is money. VC Mo, hip hip hooray, what a glorious display. Melt the joyous hearts away under the mushroom cloud confetti. Thanks for all the fish, questi erano gli A Perfect Circle. Bentornate e bentornati. Cambiamento climatico, eventi atmosferici estremi e poi degradazione ambientale e dissesto territoriale. Sono questi i temi al centro di questa puntata, ad appena una settimana dall'ultimo tragico disastro che ha coinvolto Bologna e altre città italiane. Ne parliamo con Marco Palma di Bologna for Climate Justice, ospite di oggi. Buongiorno Marco. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Dunque, Marco, gli ultimi anni hanno reso evidente che il cambiamento climatico è già una realtà che ha un impatto tragico sulle nostre vite. Le alluvioni di Bologna e Catania dello scorso fine settimana hanno riconfermato, semmai ce ne fosse bisogno, questa realtà, questo concetto. In che modo questo fenomeno sta interessando Italia ed Europa e quali misure sono state adottate per contrastarne gli effetti? Partiamo dal dirci una cosa che purtroppo ormai è ovvia: quelle che abbiamo visto la settimana scorsa non sono state piogge eccezionali, sono la nuova normalità. Piove così e pioverà sempre così anche in futuro. Dovremo abituarci ad avere periodi di siccità, ondate di calore alternati a grandi piogge, grandi precipitazioni come abbiamo visto. Questo è il frutto ovviamente della crisi climatica, del riscaldamento globale, e non c'è nessuna novità in questo. I climatologi ci dicono da anni, se non da decenni, che questi erano gli scenari a cui andavamo incontro. L'unica cosa che non avevano previsto era stata, diciamo, la rapidità con cui questi scenari sarebbero diventati concreti. E in tutto ciò noi viviamo un territorio, l'Emilia Romagna, che è inserita poi in un contesto più ampio, e in particolare il Mediterraneo, che viene riconosciuto come un hotspot della crisi climatica, ovvero un luogo, uno spazio nel pianeta in cui i fenomeni legati al riscaldamento globale sono più intensi e sono più evidenti, in qualche maniera anticipano i trend planetari. E mi chiedevi quali sono state le scelte adottate per contrastare gli effetti, e finora ce ne sono state ben poche. Abbiamo visto fallire tutte le politiche internazionali legate alla questione della crisi climatica. Basta dirci che dal 1990, cioè da quando hanno iniziato le conferenze internazionali sul clima ad oggi, ci sono state emesse globalmente più emissioni climalteranti di quante siano state emesse dalla rivoluzione industriale fino agli anni 90. E quindi, come dire, il trend ha continuato a una crescita esponenziale di emissioni. Ogni anno le emissioni aumentano, ogni anno aumenta l'estrazione di combustibili fossili, e quindi possiamo tranquillamente dirci che finora non è stato fatto nulla per affrontare la crisi climatica, che non è soltanto tra l'altro una questione fisica, ma una questione anche prettamente e fortemente sociale, e affrontarla significa davvero porsi il problema di cambiare tutto, perché non possiamo pensare di passare i prossimi anni a spalar fango dalle nostre case. Ecco, io a questo punto ti avrei chiesto un giudizio, un parere sugli interventi, sulle misure adottate dalle autorità italiane ed europee sul tema ambientale e in termini di contrasto e prevenzione dei disastri. Mi pare che ci sia un'anticipazione abbastanza chiara nelle tue parole. Sì, basti pensare, voglio aggiungere un dato che ho letto pochi giorni fa. Nell'ultimo anno globalmente abbiamo speso 1,3 trilioni di dollari in spese militari. Di fronte alla crisi climatica, internazionalmente quello che i governi stanno pensando è armarsi per fare la guerra, per commettere nuove stragi e nuovi genocidi come quelli che stiamo purtroppo assistendo in Palestina. E questo a livello globale. Se vogliamo scendere sui territori, quante infrastrutture che cementificano il territorio, che consumano suolo, che rendono più fragili i luoghi in cui viviamo, sono state progettate in questi anni e sono tuttora sul tavolo delle istituzioni e vengono definite opere strategiche per il nostro futuro. Oggi di strategico per il nostro futuro c'è una sola questione ed è quella di difendere una delle risorse più preziose e ormai più scarse che abbiamo, ovvero il suolo, perché il suolo è la cosa che ci permette di affrontare meglio le conseguenze del riscaldamento globale. Marco, si parla spesso e anche giustamente di cambiamento climatico, di degradazione ambientale. Penso che diciamo, questa rappresenti una parte della tragedia in corso e focalizzarsi solo su questo sarebbe forse insufficiente. Gli eventi di questi anni, compresi quelli della scorsa settimana, infatti hanno messo in luce che il dissesto territoriale è diffuso e sistemico e rappresenta appunto l'altra metà della catastrofe. Qual è la situazione su questo fronte, se ci aiuti a fare un quadro e a tracciare lo stato dell'arte? La situazione è quantomeno problematica per essere moderati. Partiamo dalla nostra regione. È una regione che dichiara di aver fatto una legge per fermare il consumo di suolo, lo dichiara anni fa, e nonostante ciò, di anno in anno, di proroga in proroga, il suolo si è continuato a consumare in un territorio che è tra quelli con il più alto tasso di consumo di suolo a livello nazionale e a livello europeo. La nostra regione è anche, assieme alle altre regioni che insistono sulla pianura padana, una di quelle che soffre maggiormente dei fenomeni di inquinamento atmosferico, soprattutto in inverno, legati all'uso dei combustibili fossili, e su questo finora non si è adottata nessuna politica particolarmente innovativa e rivoluzionaria. Ma vorrei sottolineare una cosa che mi sembra importante, che ci sembra importante, ovvero la necessità, l'hai accennato tu, a uno sguardo diffuso e sistemico. In questi due anni a Bologna e nella Romagna abbiamo sperimentato che quando arrivano questi fenomeni di precipitazioni intense, piove tanto, tantissimo nelle zone collinari, nelle zone appenniniche, che sono deboli, che non sono mantenute, che non sono curate. Questi territori franano mentre quest'acqua si riunisce prima in rivoli, poi in torrenti, poi raggiunge i corsi d'acqua a valle, trasportando con sé tronchi, fango, materiale, eccetera, che poi arrivano alla pianura e creano disastri negli spazi urbani. Ecco, questo è lo sguardo sistemico che dobbiamo provare a iniziare ad avere, ovvero il tema di come curare il territorio, lo spazio vitale in che viviamo, che per noi deve essere dalla cima delle montagne fino come dire, alla costa e fino all'ultimo metro di dislivello. Da lassù l'acqua scende e devasta prima i crinali appenninici per poi devastare le città. Dopodiché dobbiamo ripensare completamente lo spazio urbano. La settimana scorsa abbiamo visto Bologna disastrata con l'acqua che usciva dalle cantine dei condomini, e questo è il segno ovviamente di un'urbanizzazione che nei decenni passati non ha pensato agli spazi naturali per le acque. In queste settimane, in questi giorni si parla tanto anche sui giornali di concetti come città spugna, e quello che dobbiamo fare in questo momento è prendere le risorse che abbiamo, toglierle da quei progetti che producono ulteriore cementificazione, ulteriore consumo di suolo, e metterle a disposizione di infrastrutture ecologiche che possano tutelare i nostri umani, che possano farci vivere l'urbano all'interno della crisi climatica. Non bisogna inventarsi tantissime cose. In tante città sono già stati fatti degli esperimenti, dei tentativi. Per esempio, per citare alcune città, a Malmo c'è un intero quartiere in cui gli spazi pubblici sono stati trasformati in aree verdi, che sono aree che, come dire, sono più basse rispetto al resto del quartiere, quindi quando piove tanto l'acqua viene convogliata in queste aree verdi che diventano delle casse d'espansione. A Rotterdam è stato usato un garage sotterraneo, è stato riconvertito in un luogo per far confluire le acque. A Zurigo in questi anni si sta costruendo un tunnel sotto la città per convogliare le acque del fiume al di fuori dello spazio urbano e per permettere di rispondere a eventi di piena eccezionale. Ovviamente ogni territorio ha le sue soluzioni, non è che noi possiamo semplicemente dire allora facciamo un tunnel, allora facciamo quest'altra cosa. Bisogna studiare, bisogna capire come in ciascun territorio si possono affrontare le precipitazioni del presente e del domani, e bisogna destinare lì tutte le risorse. E questo significa una cosa molto semplice, significa fare delle scelte. Ora, in Emilia-Romagna è più importante spendere 7 miliardi di euro per allargare le autostrade, a partire dal nodo di Bologna, ma non solo, oppure è più importante intervenire nell'Appennino, nella zona pedecollinare, per curare il territorio, per garantire qualità della vita in quei posti che sennò tra l'altro rischiano lo spopolamento, perché chi ci resta ad abitare in un posto che ogni 3 mesi frana, che ogni 3 mesi vede una strada andare giù e che non permette più di avere dei collegamenti efficaci con gli ospedali, con le scuole, con i luoghi del tempo libero. In tutto ciò, ed è l'ultima cosa che mi sembra importante sottolineare, non possiamo dimenticare la dimensione sociale della crisi climatica. Il riscaldamento globale ha impatti diversi su vite di persone diverse, e questi impatti sono ovviamente direttamente collegati ai redditi e alle ricchezze. Quando arriva un'alluvione, chi ha una sola casa in cui vivere perde tutto. Chi invece ha più case, ha più automobili, ha più beni, eccetera, perde qualcosa del suo patrimonio. Ecco, oggi dobbiamo dirci che la questione climatica è una questione anche fortemente sociale e che va affrontata a partire dal costruire maggiore giustizia, maggiore equità nelle nostre città e nei luoghi che viviamo. Marco, abbiamo ancora tempo per un'ultima domanda. Questa per sua natura non è una trasmissione che porta ottimismo, diciamo, e allora un po' di timore a farti questa domanda, ma te la faccio ugualmente. È ancora possibile frenare ed invertire le tendenze in corso? Dal tuo punto di vista è verosimile che le autorità italiane, comprese quelle locali naturalmente, e anche le autorità europee investano risorse politiche, economiche e anche scientifiche sufficienti e in tempi ragionevoli perché ciò accada? Come dicevo all'inizio, ci dobbiamo dire che i fenomeni, insomma, legati alla crisi climatica sono attualità, non sono più un qualcosa di futuribile, di probabile, di forse. La crisi climatica è qui ed ora, e in questo senso, diciamo, le tendenze climatiche no, non si possono invertire, certamente si possono mitigare. Se domani smettessimo di consumare combustibili fossili, avremmo comunque ancora per molto tempo una temperatura in crescita dovuta alle emissioni che in tutti questi decenni sono state accumulate, ma certo la curva di crescita delle temperature si abbasserebbe e quindi anche gli effetti sarebbero meno devastanti. Ciò detto, non ci pare che le istituzioni a livello internazionale, a livello nazionale e nella gran parte delle volte anche a livello locale abbiano capito qual è la posta in gioco e qual è il nodo della discussione. Loro ancora ci parlano di sviluppo economico, come se lo sviluppo economico fosse il mantra da inseguire costi quel che costi. Abbiamo visto il governo italiano opporsi anche alle più flebili misure di efficientamento, per esempio del trasporto privato nei prossimi decenni, perché bisogna difendere dei profitti, perché bisogna difendere delle posizioni di rendita. Il tema oggi è cambiare tutto, e questo lo possiamo fare anche e lo dobbiamo provare a fare costruendo processi dal basso, costruendo processi di mobilitazione, costruendo anche processi di pratiche concrete. Noi in queste settimane abbiamo, prima dell'alluvione tra l'altro, quindi purtroppo annusando anche l'aria che tira, abbiamo iniziato un percorso in questo senso che vuol provare a costruire a Bologna uno spazio dell'ecologia urbana, un luogo fisico concreto concreto, partecipato, in cui pare delle pratiche. Lo abbiamo fatto a partire da dei verbi, e i verbi sono per esempio desigillare, ovvero ridare spazio al suolo, togliere l'asfalto, togliere il cemento, ricostituire aree verdi, e poi forestare, ovvero piantare piante, alberi ovunque nello spazio urbano, perché queste servono per tante cose, servono a star meglio. Intanto in estate, per esempio, come facciamo a dire che vogliamo una città ciclabile, come si dice a Bologna, quando in estate, a luglio, ad agosto, non si riesce ad andare in bicicletta per le strade perché si muore letteralmente di caldo? Serve ombra e quindi servono piante, ma servono anche quando piove, perché le piante, come dire, assorbono acqua, la trattengono, rallentano il flusso, hanno tutta una serie di capacità che ci aiutano anche ad affrontare i momenti d'emergenza. Questo, noi pensiamo, lo dobbiamo fare a partire da dei processi collettivi che partano dal basso, che sappiano mettere insieme pratiche e conflittualità. Ovviamente da sole e da soli non cambieremo la tendenza globale, ma se in tanti territori, in tanti luoghi, riusciamo a capire come attivarci in questo senso e come legare la questione climatica alle ingiustizie sociali, ecco, questa a noi sembra la strada per cambiare davvero tutto. Diceva una vecchia canzone del Consorzio Suonatori Indipendenti: l'apocalisse è quello che c'è già, è come dargli torto. Marco, io ti ringrazio moltissimo per il tuo tempo e il tuo preziosissimo contributo. Grazie molto a voi, buona giornata. Noi ci sentiamo sabato prossimo sui 103.1 in FM a Bologna e dintorni, oppure online, sempre su Radio Città Fucico. L'apocalisse è quello che c'è già.